E allora sì, ovviamente questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, noi stravolgiamo la programmazione di questa sera per la brutta notizia appunto che ci ha raggiunto, se n'è andata Carla Verbano, ci ha lasciate questa sera, lasciati. Lo ricordiamo, c'è un appuntamento alle 22 sotto casa di Carla in via Montebianco, anche da queste frequenze. Poi un saluto particolare a tutte le compagne e tutti i compagni che sono state e stati vicino a Carla in tutti questi anni, che l'hanno accompagnata anche nella sua battaglia per ottenere insomma almeno la verità sulla morte, l'uccisione, l'omicidio di suo figlio. Noi volevamo anche proporvi un contributo audio. Carla è intervenuta molto da queste frequenze, sempre era una amica della radio, una sostenitrice della radio, e tra le tante audio che abbiamo delle sue testimonianze, noi vi proponiamo uno dei più recenti in occasione dell'uscita del suo libro scritto insieme al giornalista, non mi ricordo il nome, Capponi, mi ricordo il cognome, ma insomma, il libro di Carla sia Folgorante la fine, e quindi vi facciamo ascoltare direttamente dalle sue parole questo libro che parla proprio di lei e della uccisione del figlio, di com'è cambiata la sua vita dopo l'uccisione, l'omicidio del figlio da parte dei fascisti. Siamo qui con Carla Verbano, è uscito questo libro con Alessandro Capponi. Se ti va di raccontarci come è nata l'idea di fare questo libro, perché con Alessandro, e se sei soddisfatta di quello che ne è uscito fuori. Dunque, mi telefonò la Rizzoli, la casa editrice, per chiedermi se avevo intenzione di scrivere un libro, e io è logico dissi non sono una scrittrice come qualche faccia, e dice no, ma lei affiancamo un bravo giornalista, Alessandro Capponi. Ah, dico bene, mi fa piacere perché lo conosco, io l'avevo conosciuto l'anno scorso, per il 22 aveva scritto un bellissimo articolo sul Corriere della Sera di una pagina intera, ma proprio bello, che piacque a tutti, e dice allora va bene, ne mandiamo Alessandro Capponi. Alessandro è venuto, abbiamo parlato, e per un mesetto, una volta alla settimana, veniva qui la mattina, che io mi incavolavo un po' perché la mattina io sono abituato a uscire, ma lui d'altronde lavorava al Corriere, il pomeriggio non poteva. Comunque abbiamo fatto questo libro. È venuto molto bene perché Alessandro ha faticato a corrermi dietro perché io andavo di qui di là, e invece è riuscito a mettere insieme, ha fatto un bellissimo lavoro, è venuto fuori un bel lavoro, non so se voi l'avete letto, però è venuto fuori un bel lavoro, sono soddisfatta. Il fatto cartaceo non c'era niente, ecco perché ho deciso di fare il libro, perché almeno rimane una memoria scritta, ecco. I media come hanno affrontato la questione di Valerio Verbano allora, quindi 30 anni fa, quindi la televisione, e come la stanno affrontando adesso, visto che mi hai detto che poi il 22 febbraio ci sarà questa trasmissione di Chi l'ha visto, per la prima volta si parlerà di Valerio Verbano. Dunque, all'epoca di Valerio parlarono i primi giorni, ne parlarono per un po' del fatto dell'omicidio, perché è stato un omicidio anomalo, diverso dagli altri, che gli altri ragazzi venivano uccisi per la strada, qui sono venuti in casa sequestrando noi e facendosi assistere alla morte di Valerio, è stata una cosa atroce, perciò ne hanno parlato un po', però noi non siamo mai più stati contattati, non siamo stati contattati da nessuno, né psicologi né autorità, niente, nulla. Rilasciato l'intervista a Chi l'ha visto, dovrebbe essere bella, andrà in onda il 22 sera, che è lunedì, e ho chiesto se è possibile fare l'invecchiamento dell'identikit che ci sono su Valerio. Ho chiesto se loro possono chiedere alla magistratura se possono farlo. Vediamo se sarebbe anche importante quello, perché magari l'invecchiamento qualcuno può averlo vicino, un ufficio, un negozio, insomma qualche se possono riconoscerlo, chi lo sa che possa venire qualcosa. Conto molto su chi l'ha visto. Si è svegliato tutto nel 2005, quando ci fu la cosa là dei fratelli Mattei, che volevano sapere chi era che avevano ucciso i loro figli. Allora un giornalista dell'ANSA mi telefonò per sapere cosa ne pensavo e disse che erano nel pieno diritto. Infatti questo mi disse: ma lei che è di un altro colore, disse, a prescindere da che lei non sa di che colore sono io, vero? Però sono tutti ragazzi che sono morti in giovane età e qui non c'è nessun colore, non c'è. E da lì è cominciato che mi telefonò Smeriglio, poi Veltroni, poi Vespa fu il primo che fece la trasmissione, sono subentrate tutte le televisioni una dietro l'altra e hanno cominciato a parlarne, sono dal 2005 che se ne parla. Io cerco di mantenere vivo il ricordo di Valerio un po', che succede qualche cosa, ci sono sempre giornalisti che mi chiamano, mi intervistano, poi ci sono stati dei battibecchi con Alemanno, purtroppo, e anche lì la stampa un po' esagerato, un po' forse esagerato io perché gli ho dato del fascista, mentre invece lui è di destra, e va bene. E perciò il ricordo di Valerio va avanti, si mantiene vivo. Anche ieri ho avuto dei contatti con Alemanno, che dice che vorrà intitolare una via cittadina Valerio, e appunto un giornalista dell'ANSA mi ha chiesto se io lo facevo venire il 22 e gli ho detto no, non se ne parla proprio. Dico, se mi trova gli assassini di mio figlio lo accoglierò benissimo, a braccia aperte lo accoglierò il 22. Non so di quale anno, ma che mi trovi gli assassini di Valerio. Alemanno ha detto che voleva fare questa strada, in realtà verrà cambiata la dicitura a quella che già c'è, visto che... Sì, a quella che già c'è, al Parco delle Valli, che nel Parco delle Valli c'è Viale Valerio Verbano, vittima della violenza, e io ho detto di aggiungere violenza politica come fece l'anno scorso per Dinella, uguale. Avrei voluto mettere violenza politica fascista, ma questo non è possibile, mentre invece a Napoli l'hanno fatto. A Napoli c'è stato intitolato una via in un quartiere Scampia, però un quartiere nuovo hanno fatto, è bellissimo, nella piazza c'è questa bella cosa, Valerio Verbano antifascista. Loro hanno avuto il coraggio di mettere la parola antifascista. Ma come procede la parte giudiziaria? Tutto calmo, tutto fermo. L'anno scorso chiesi, siccome Valerio durante la lotta qui levò due passamontagne, cioè un passamontagne e un cappelletto, poi c'erano il rotolo di scotch, quello per pacchi, i vari pezzi che avevano staccato, perciò ci sarebbe stata la saliva, potevano trovare qualche prova del DNA, qualche capello nei passamontagna, e invece mi hanno detto che è stato bruciato tutto. Non ci sono più reperti. Dico, come si fa a non tenere i reperti di un omicidio che è un caso che è ancora aperto, perché è un caso irrisolto? Hanno bruciato tutto, non c'è niente, perciò io non so che fare. La magistratura cosa può fare adesso? Ci vorrebbe solamente che qualche pentito parlasse. Io ho ricevuto qui in casa anche Valerio Fioravanti e la Francesca Mambro, non mi dico come mi sentivo quel giorno aver che due delinquenti qui davanti, ma mi sono fatta coraggio perché volevo vedere se sapevano qualcosa. Mi hanno detto niente, non sapevano niente, non sanno niente. Io dico, con tanti omicidi che si sono accollati, non accollarsi anche questo, non lo so, forse non saranno stati loro, va bene, però sanno chi sono stati, non lo vogliono dire, hanno trovato la scusa di dire ma saranno stati i NAR della Magliana, e adesso quando non sanno che dire tutti danno la colpa a quelli della Magliana. Infatti si parlò di denaro, di terza posizione, sì, ma... quelli penso, io penso, sono convinta che sono quelli, sono in AR, perché vedi, quando qui Valerio disarmò uno, rimase una pistola, e poi questa pistola era andata a Palermo, non lo so, era andata a finire, anche quella è sparita. Quando Valerio fu ucciso, la polizia non diramò il tipo di proiettile, il tipo di pistola che era. E questi qui dissero all'Ansa il tipo di proiettile che erano proiettili dirompenti, e il tipo, la marca della pistola. Perciò lo sapevano solo loro, la polizia non aveva ancora diramato nessun bollettino ufficiale. Ecco perché io sono convinta che siano loro. Sino come facevano gli altri a sapere il tipo di pistola e di proiettile? Mi hai nominato Amato? Sì, al giudice Amato. Il giudice Amato, lui è morto perché stava lavorando sulle versioni di destra e stava lavorando sul dossier di Valerio. È stato ucciso proprio malamente. Guarda se c'è qualcosa, se c'è un fiore quando è il suo anniversario a quell'albero lì o sotto casa. Niente, non lo ricorda nessuno, non lo ricorda. Perché questo? Io l'ho scritto anche nel mio libro, ho scritto parecchio su Amato, che mi è dispiaciuto molto. Perché le forze dell'ordine, le autorità non ricordano un giudice? È sempre stato abbandonato, è stato abbandonato prima e abbandonato anche dopo che è morto. Leghi ovviamente, l'uccisione del giudice Amato con quella di Valerio? Lavorava al dossier di Valerio, non dico che sia stato ucciso per Valerio, però lavorava sulle versioni di destra, su tutte le versioni di destra e sul dossier di Valerio. O aveva trovato qualcosa o avevano paura che scoprisse qualcosa, però quando il dossier è andato in mano a Amato era già ridotto al quadernetto, si erano già preoccupati di togliere tutte quelle pagine, non so cosa avesse potuto trovare. Morale, che è stato ucciso anche lui, ucciso e dimenticato.